I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Un'altra giornata di passione non solo per le borse, ma soprattutto per il mercato petrolifero. Borsa in caduta libera, prezzo del petrolio in caduta libera, prezzo del dollaro in rialzo. Il riapprezzamento del dollaro, infatti, è alla base della forte debolezza del greggio, non il contrario. Ieri, proprio l'apprezzamento del biglietto verde ha spinto il prezzo al barile del petrolio a $32, un livello che non si vedeva dal 2003, in pratica da più di 12 anni. Ma che cosa bisogna pensare per i prossimi giorni, per le prossime settimane? Non c'è niente di buono sul fronte occidentale. Gli Stati Uniti, infatti, con la decisione di liberalizzare o di aprire parzialmente il mercato petrolifero iraniano alle esportazioni, creeranno una spinta in più al ribasso dei prezzi del greggio. Certo, resta una domanda di fondo. Negli Stati Uniti, col prezzo del petrolio che scende, bastano $20 ormai per fare un pieno. In Europa e soprattutto in Italia servono ormai più di €100 per fare lo stesso pieno di benzina. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Il petrolio è crollato intorno ai $30, salvo poi recuperare qualcosa in fine seduta, ma nonostante il rimbalzo, le quotazioni del greggio non sono mai state così basse. Significa sostanzialmente tre cose: che per i paesi produttori si profila un buco nei bilanci pubblici, che sono fondati per lo più sulle entrate legate al greggio, ad esempio il Venezuela è uno stato ormai in default. Significa che per le società petrolifere si riducono i margini negli utili e soprattutto si assottigliano, fino a sparire del tutto, gli spazi per gli investimenti nelle trivellazioni di ultima generazione, quelle più costose che hanno bisogno di un prezzo vicino ai $100 per essere possibili. Significa anche che per i consumatori cala naturalmente il prezzo della benzina e per le imprese si riduce il costo della bolletta energetica. Il segnale complessivo è che il calo del greggio è legato soprattutto alla forte riduzione dei consumi dovuta al rallentamento dei paesi locomotiva, come sono la Cina o i cosiddetti paesi emergenti. Si crea così un eccesso di offerta che ovviamente abbatte il prezzo del barile. Ma c'è anche la divisione all'interno dei paesi OPEC, che non hanno ancora concordato una linea comune per la gestione della situazione di iperproduzione a pesare sul quadro della situazione generale. Soprattutto perché il cartello dei paesi produttori sconta l'ostilità dell'Arabia Saudita verso l'Iran, con cui si è aperta una vera e propria crisi diplomatica, dopo l'esecuzione dell'imam sciita considerato dai sunniti arabi come un terrorista. Il processo di appeasement con gli Stati Uniti consentirà a Teheran di superare l'embargo e riporterà il petrolio iraniano nei flussi del commercio globale. E questo non è certo ben visto dai sauditi, che con la carta della sovrapproduzione puntano a bruciare gli spazi di mercato per il greggio iraniano. L'OPEC farà presto una riunione straordinaria, ma gli analisti continuano a vedere un futuro con il petrolio a bassissimo costo, soprattutto perché non vedono a breve una ripartenza forte dell'economia mondiale, e questo certo non è un bene. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.